Radio 3 Scienza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Dunque, la notizia è sulle prime pagine di tutti i giornali. È stata somministrata per la prima volta in Italia la pillola RU486, la pillola del cosiddetto aborto chimico, o più giustamente aborto farmacologico. La somministrazione è avvenuta a Bari e la signora che l'ha assunta ha rifiutato il ricovero ospedaliero, sollevando subito uno dei temi di più acceso dibattito, appunto quello del ricovero ospedaliero obbligatorio per chi fa uso di questa pillola prevista dal Consiglio Superiore di Sanità. Ne parliamo oggi con Carlo Flamigni, ginecologo e autore di un libro che è uscito proprio in questi giorni, che si chiama RU486, Non tutte le streghe sono state bruciate, pubblicato insieme a Corrado Melega con l'Asino d'Oro Edizioni, quindi appena uscito. Tra l'altro, professor Flamigni, nella introduzione di questo vostro libro voi affrontate esattamente questo tema, l'obbligo previsto dal Consiglio Superiore di Sanità di ricovero prolungato per chi assume la pillola. Sì, lo affrontiamo perché proprio mentre stavamo per andare in stampa è uscito questo documento del Consiglio Superiore di Sanità, un documento molto particolare. Adesso il Consiglio Superiore di Sanità è composto da membri che sanno tutto della scienza, di come si scrive un documento, di come si fa ricerca scientifica. Questo è un documento peculiare perché, per esempio, riporta a fine 170 voci bibliografiche che non sono mai citate nel testo, e lei mi insegna che questo è abbastanza strano per un documento scientifico. E poi, se si vanno a vedere le voci bibliografiche, quasi tutte, direi più del 90%, dicono esattamente l'opposto delle conclusioni del Consiglio Superiore di Sanità, che è veramente strano. D'altra parte, adesso senza annoiare troppo chi ti ascolta, ci sono moltissime ragioni perché si debba contestare questa imposizione del ricovero obbligatorio. Primo, ho già sentito, il signore si faranno così la maggior parte delle donne, ha rifiutato di rimanere ricoverata in attesa non si sa quanto lunga di una cosa che potrebbe attendere benissimo a casa sua. Secondo, questo fatto di firmare la richiesta di essere lasciata libera di uscire dall'ospedale comporta però una penalità per la donna, perché dal momento in cui firma la responsabilità dell'ospedale e dei medici nei suoi confronti cessa, quindi aumenta la solitudine. C'è poi da tenere presente che tutta l'Europa, tutto il mondo, se non fosse che addirittura negli Stati Uniti non è necessario nessun ricovero, le donne fanno tutto a casa, ma tutta l'Europa ha ammesso l'inutilità dei ricoveri ordinari. La maggioranza dei paesi richiede una permanenza in ospedale di 3-6 ore dopo la somministrazione della seconda compressa. E poi ci sono delle ragioni legali, adesso io sono più debole, ma insomma, se ricordo bene, ci sono dei limiti costituzionali all'intervento del legislatore sui problemi che hanno a che fare con le mie scelte sulla modalità di cura, una volta che io assicuro che sono fatte secondo scienza e coscienza sui trattamenti sanitari. Un limite che ha a che fare con la tutela della salute. C'è una certa indipendenza delle regioni nei confronti dello Stato. C'è il problema che comunque si disconosce, come può dire, la competenza dei medici, che sono abituati da sempre a queste cose. Le ricordo che quando una donna va a farsi vedere dal suo medico nella gravidanza iniziale e si sente dire purtroppo è scomparso il battito, c'è un aborto interno, è in qualche modo un'esemplificazione clinica di quello che avviene invece, diciamo, brutalmente con l'assunzione di questi farmaci. Ebbene, questa donna non viene ricoverata, viene mandata a casa dal trattare, che succede qualcosa. C'è un'esperienza di milioni di interruzioni di gravidanze che lo provano, e qui sono molto curioso di sentire cosa dirà un magistrato. I livelli essenziali di assistenza di cui fa parte l'uso di questa pillola ammettono che il Ministero intervenga, ma per definire l'idoneità della struttura, cioè il Ministero deve dire quella struttura è adatta, quella struttura no, ma non può intervenire sulle modalità di cura, su cose diverse. Questa attiene al medico. Ecco, un altro punto, diciamo, di discussione intorno a questa pillola, almeno diciamo, qui in Italia, è che la pillola presenterebbe degli effetti collaterali pericolosi e voi affrontate nel vostro libro con Corrado Melega anche questo tema. Sì, tanto nel libro noi cominciamo proprio con una citazione di Orazio delle Epistole, diciamo, quod medicorum est promittum medici, perché Orazio dice, insomma, il marinaio spiega le vele, il medico fa i misteri, i salasti, tutti quanti possiamo scrivere poesie, ma è bene che chi scrive poesie non pensi di poter anche fare i misteri, i salasti, insomma, ognuno dovrebbe fare il suo mestiere. E di questo argomento hanno parlato tutti e un po' alla vera. In realtà, molto correttamente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che questa non è la panacea universale. Questo è un sistema che ha vantaggi e svantaggi, più vantaggi che svantaggi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha classificato 1A, cioè la raccomandazione 1, l'evidenza A, che è il massimo delle approvazioni per un farmaco, ma anche degli svantaggi: le donne rimangono più coinvolte per un tempo più lungo, compaiono episodi di sanguinamento che possono protrarsi, di dolore addominale. Tutto questo è però considerato accettabile, disturbi accettabili, raramente sono disturbi così importanti da richiedere trattamenti. Importante è l'informazione. È stata fatta poi una grande cagnara sgradevole sulla mortalità che è stata legata all'uso di questi farmaci. Sono riportati nella letteratura un numero assolutamente modesto di incidenti fatali collegati soprattutto con infezioni che da anni non si verificano più, da quando si è capito che non dipendeva tanto dall'RU486 ma dalle prostaglandine che vengono somministrate dopo e dalla loro somministrazione vaginale. Da quando questa è stata sostituita da una somministrazione orale, questi incidenti non ci sono più e comunque la mortalità complessiva è la stessa dell'aborto chirurgico. Quindi paragonato bisognerebbe cominciare come? Paragonato all'aborto chirurgico non presenta. Non ci sono rischi maggiori. E in più c'è questa sensazione di poter rinunciare all'anestesia, alla manipolazione del chirurgo, e per molte donne è molto importante, ma io chiedo, non devo scegliere io, il mio compito è quello di essere molto chiaro, di raccontare in modo molto onesto vantaggi e svantaggi e mettere le donne nelle condizioni di poter scegliere. Ecco, c'è una ascoltatrice, Monica da Catanzaro, che ci dice, ma c'è, ritornando al problema del ricovero, c'è una ragione medica per il ricovero? C'è il rischio di emorragie gravi oppure no? Dunque, la ragione medica per il ricovero che viene invocata da chi lo sta esigendo è che così si dovrebbero prevedere e trattare direttamente in ospedale le complicazioni. C'è un piccolo problema, che tutte le complicazioni, che sono per fortuna rare ma che esistono, si verificano dopo che comunque la donna se n'è andata a casa, sono sempre tutte tardive, e comunque il numero di terapie per un eccessivo sanguinamento riguarda l'1 per 1000 dei trattamenti, che è un numero veramente molto basso e che è molto simile a quello che consegue ai danni dell'intervento chirurgico, della revisione strumentale della cavità. Devo anche dirle che noi non abbiamo le idee chiarissime, nemmeno il Ministero le ha, sui danni dei raschiamenti, perché il documento viene completato quando la donna esce e molte complicazioni sono successive. Voglio dire, la sindrome di Hashemann, che è la chiusura per obliterazione della cavità uterina, certi danni da perforazione silente dell'utero, la sterilità secondaria, non vengono attribuite al raschiamento, perché se ne accorge il successivo ospedale dove viene ricoverata la donna, se ne accorge la donna stessa quando va a cercare un figlio. Quindi mentre i danni dell'RU486 sono stati oggetto di un'attenzione particolarissima, addirittura esagerata, quelli dei raschiamenti, sì, sappiamo molto vagamente che c'è un più o meno un morto ogni 100.000 revisioni strumentali di cavità, non abbiamo nemmeno le idee chiare sui danni dell'anestesia, ne sappiamo di meno e anche qui dipende molto dalle strutture, ci sono strutture che questi danni li evitano e altre invece che ne fanno in eccesso. Ecco, un altro punto che viene di controversia, diciamo, che viene sollevato è che la pillola, essendo un strumento meno invasivo, aiuterebbe, favorirebbe l'aumento del ricorso agli aborti. Ci sono dati scientifici che suffragano questa tesi? Sì, ci sono dati amplissimi, ma noi abbiamo scritto questa piccola monografia come si scriveva una volta, no? Abbiamo detto delle cose, ognuna delle cose è suffragata da letteratura medica, bisognerebbe fare così e lasciare poco spazio invece le fantasie personali che non sono corrette. C'è letteratura medica ampia che dice che la frequenza dell'interruzione di gravidanza non è aumentata per niente, ha continuato a diminuire come sempre diminuita in alcuni paesi, è rimasta la stessa in altri dopo l'introduzione della pillola abortiva. Tenga conto tra l'altro, ma questo lo lascerei dire alle donne, mi sembra un grande insulto fatto alle donne questo, che una donna possa decidere di abortire in base alla facilità con cui ha possibilità di approccio alle strutture mediche, mi sembra veramente un insulto. Scegliere di abortire o no, poi è personale, grave, importante, il momento in cui una donna esplora la propria coscienza, cosa c'entra la facilità? Allora, adesso che ci sono tanti medici obiettori e che è molto difficile arrivare a fare gli interventi negli ospedali, tanto che molte donne sono costrette ad andare negli abortifici o addirittura all'estero, allora dovrebbero diminuire l'interruzione di gravidanza per questo, ma non è così. Ecco, c'è un nostro ascoltatore che ci dice: bravi, bene, continuate a fare il gioco delle grandi aziende farmaceutiche. Secondo lei, diciamo, questa è un rilievo pertinente? Ma io non lo so se è pertinente. Io parlo per me, io ho la stessa antipatia per le aziende farmaceutiche che ho per chi fa ragionamenti come questo ascoltatore, perché sono molto approssimativi e grossolani. Io, nessuna azienda farmaceutica mi ha mai invitato a una sua festa, perché ho sempre parlato molto chiaramente e ho illustrato i danni che anche recentemente il comitato di bioetica abbiamo avuto occasione. Quindi non sono simpatico all'azienda farmaceutica e non vedo perché dovrei farle dei favori. Questa è una sciocchezza che hanno messo in giro alcune signore cattoliche, hanno scritto anche un libro su questo, saremmo tutti quanti coinvolti. No, io, i miei problemi economici li risolvo diversamente. Bene, io ringrazio il professor Carlo Famigni, ricordo ginecologo e autore insieme a Corrado Melega del libro RU486, Non tutte le streghe sono state bruciate, ricordo il numero di telefono per inviarci sms e intervenire direttamente in trasmissione, 335-56-34296. Me pictures in the gallery.